Famiglia Cristiana, nel senso della nota rivista settimanale delle edizioni pauline, non è solo casa e chiesa, anzi non è mica solo casa e chiesa, come ci assicura una diffusa campagna pubblicitaria che ha conquistato in questi giorni anche le fiancate degli autobus. L'affermazione è orribile dal punto di vista linguistico per l'uso di quel mica, un avverbio affatto pleonastico che un tempo avrebbe sfruttato l'autore un bel segnaccio con la matita blu, ma non ho motivo di supporre che sia menzognera. Personalmente non leggo quel periodico, ma la mia amica Patrizia, che è una gran brava persona ma non si può definire esattamente pia, mi assicura che sulla guerra e sulla globalizzazione vi si esprimono delle posizioni ben più incisive di quante ne abbia manifestata l'intera opposizione di sinistra. Voi potrete dirmi che non ci vuol molto, ma nel complesso, sul fatto che Famiglia Cristiana vada considerato un importante organo di informazione e non un insignificante bollettino parrocchiale, che non si occupa quindi solo di casa e di chiesa, ma di tutto quanto capita in questo povero mondo, possiamo essere tranquillamente d'accordo. D'altronde le testate dei giornali e delle riviste non sono di solito molto significative. O vengono pari pari dalla tradizione, come succede ai Corrieri, alle Gazzette, o esprimono messaggi affatto generici. Un settimanale può intitolarsi L'Espresso, nel senso che si vanta di sottoporre le notizie ai lettori con prontezza e sollecitudine, o Panorama, per esprimere la volontà di offrire degli eventi mondiali una visione completa, secondo l'etimologia del termine, ma nell'uno o nell'altro nome intende accusare gli organi della concorrenza di essere tardivi o incompleti. Der Spiegel vuole essere lo specchio, appunto, del nostro tempo, allo stesso titolo con cui Time si vanta di rispecchiarlo. Si tratta di etichette cui nessuno attribuisce un valore particolare e i valori che ci spingono a scegliere un organo di informazione piuttosto che un altro vanno cercati naturalmente altrove. Tuttavia ci sono testate e testate. Se vado in edicola a comprare qualcosa che si intitola, che so, PC Computers o Caccia e Pesca, ho il diritto di trovarci solo soprattutto articoli riguardanti l'informatica o l'inseguimento e l'uccisione degli animali selvatici. Sarebbe futile cercare su Italia Filatelica altro che informazioni utili al collezionista di francobolli, o aspettarsi di leggere su Bandiera Rossa, su A Rivista Anarchica, commenti ed editoriali ispirati alla filosofia del liberismo, anche se in questo caso, visti i tempi che corrono, si possono sempre avere delle sorprese. Quel tipo di testate lì, chiamiamole pure, se siete d'accordo, testate parlanti, indicano con una certa precisione il campo di interesse e gli orientamenti ideologici dei lettori cui si riferiscono. Sono frutto di una scelta editoriale precisa, quella di chi limita a priori il proprio mercato perché preferisce assicurarsi una nicchia sicura. E non c'è dubbio che una testata come Famiglia Cristiana appartenga a questa categoria e che nel vanto di non essere mica casa e chiesa si adombri, oltre che un idiotismo linguistico, anche una certa qual fastidiosa contraddizione. Avete già capito dove tendo a parare e mi direte, suppongo, che come polemica è una polemica facile. È vero che quel periodico è nato grosso modo come un bollettino parrocchiale allargato, mi ricordo che veniva distribuito più che nelle edicole alle porte delle chiese in occasione della messa festiva, ma poi si è evoluto. Oggi non si limita ad esaltare i valori della famiglia nell'interpretazione che ne dà la Chiesa, ma si occupa di costume, cultura politica, di tutti i problemi della vita moderna. Pubblica una rubrica di teologia, ma la cosa non vuol dire niente, visto che eminenti teologi scrivono anche sul Manifesto. Che male c'è, mi direte, se gli editori intendono rendere dotto il mercato di questo sopravvenuto allargamento dei loro interessi. Nessun male naturalmente. Ma a me quella campagna ha dato fastidio lo stesso. Io vi ho colto, se mi permettete, un barlume di quella vaghezza culturale, meglio nota, se preferite i termini alla moda con il termine di spirito bipartisan, che aduggia al mondo contemporaneo. Io sono stufo, amici miei, e sono stufo di gente che vuole la pace e vota per la guerra, che difende lo Stato sociale ma è sensibile alle esigenze del mercato, che vuole il progresso ma non rinuncia alla tradizione, che predica il rispetto ma esercita la contumelia, che vuole sempre e comunque il nero nel bianco e il bianco nel nero, perché quando si viene al dunque non sente il bisogno di schierarsi, ma teme una corretta presa di posizione più di qualsiasi altra cosa al mondo. Non invoco lo scontro, gli dèi me ne scampino, ho sempre cercato di comprendere le ragioni degli avversari e di rispettarle quando appena possibile, ma ammetterete anche voi che per essere rispettato un avversario deve manifestarsi per tale. Di vescovi che spiegano le ragioni del laicismo e di laici che dissertano sui fondamenti dello spirito religioso non ne posso davvero più. E non è, vi assicuro, un problema di scarsa tolleranza. E la tolleranza è qualcosa d'altro. La tolleranza serve a gestire civilmente le diversità e non ha proprio niente a che fare con una tendenza al compromesso ideologico che le diversità tende ad annegare ed è sempre a rischio di sconfinare nell'indifferenza morale. Stando così le cose, gli amici e colleghi di Famiglia Cristiana non hanno, ai loro, altra possibilità di scelta. Se non vogliono che il pubblico pensi che la loro rivista è tutta una cosa di casa e chiesa, devono cambiare la testata. Sarà immagino un sacrificio, perché a tutti fa piacere appropriarsi del nuovo tenendosi ben stretto il vecchio, ma è un sacrificio di ben poco conto, di fronte all'esigenza di manifestare la verità, che è poi una delle esigenze base in cui cattolici e laici, religiosi e miscredenti possono e debbono riconoscersi insieme. E se la conclusione vi sembra troppo solenne rispetto alla futilità del pretesto, me ne dispiaccio, ma non so cosa farci.